qual più bel vento muto ad accento e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso il pianto il riso e menzognero la donna è mobile qual più bel vento muto ad accento e di pensiero e di pensiero See you.